Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Bologna, 19 marzo 2002. Un uomo e la sua bicicletta è l'immagine di quella fredda sera italiana. È solo Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare ed esperto di riforme del mercato del lavoro. Lui pedala dalla stazione a via Valdonica, una stradina stretta intorno a vicoli, piazzette, antichi cammini, tra palazzi del 400 e negozi moderni. Si trova nel ghetto ebraico. Su quella bicicletta porta una borsa di pelle nera, carica di documenti, ricerche, articoli già pronti, relazioni, idee e progetti. Delle abitudini di Marco Biagi i brigatisti conoscono ormai tutto. Lo pedinano a Bologna fin sotto la sua abitazione. Lo cercano a Roma, dove si reca per le consulenze al Ministero del Welfare. Non lo perdono di vista a Pianoro e Marina di Ravenna, dove si riposa d'estate con la famiglia e incontra gli amici. Neppure a Modena, dove insegna diritto del lavoro all'università. Sono le 19.41 e Marco Biagi scende dalla carrozza del locale Modena-Bologna. Cammina lungo il binario 1 del piazzale ovest della stazione. Si dirige verso l'uscita, poi volta a destra verso la saletta degli Eurostar. Stessa ora. Cinzia Vanelli, nome di battaglia Sonia, attiva la SIM card acquistata a Roma. L'impulso viene captato e registrato dalla cella telefonica bis di via Mentana, che copre gran parte del centro città, compresa l'abitazione di Marco Biagi in via Valdonica. Le 19.53. Il professore esce dalla saletta Eurostar con il biglietto per Roma del giorno dopo, poi cammina a piedi ed esce dalla stazione. Lui attraversa la piazza, attende il verde del semaforo e taglia di traverso la strada. Entra nella galleria 2 agosto. Lì ritrova la sua bicicletta da donna con davanti il cestino. È chiusa con due criptoniti appoggiata a un cartello stradale. La sua borsa è poco accanto al manubrio. Diana Blefari Melazzi, nome di battaglia Maria, pure lei in bicicletta, si accerta che il professore sia partito e con la rice trasmittente scandisce agli altri componenti del comando il percorso abituale di Marco Biagi, quello che sarà il suo ultimo tragitto. Via Indipendenza, piazza 8 agosto, via Marsala, piazza San Martino, via Valdonica. Mario Galesi, nome di battaglia Paolo, Roberto Morandi, nome di battaglia Luca, sono già sotto l'abitazione di Marco Biagi, indossano i caschi integrali e attendono il professore sopra un motorino. Cinzia Banelli è ferma sulla sua bicicletta in piazza San Martino. Nadia Desdemona Lioce, nome di battaglia Rosa, pure lei in bicicletta, si trova verso via Zamboni, tra via Valdonica e vicolo Luretta. Diana Blefari Melazzi è posizionata tra vicolo Luretta e via Marsala. Bologna, via Valdonica, sono le 20.10. Marco Biagi si volta di scatto, si lancia a terra, la bici finisce contro la colonna del sottoportico e proprio in quel preciso istante una ragazza da un bar assiste alla scena dell'omicidio. Il signor Biagi era steso di fronte alla porta di casa sua e la persona che ho visto io sparare era inclinata verso di lui. Marco Biagi ha detto: per favore aiutatemi, sono state le ultime sue parole. Il primo proiettile della pistola semiautomatica di Mario Galesi si conficca sul muro di via Valdonica. Gli altri 5 trafiggono il corpo di Marco Biagi. L'arma è una Makarov marcata Carl Walter 9x17 tipo corto. Non è silenziata. Le cartucce sono tutte di marca Sellier e Bellot. Mario Galesi e Roberto Morandi fuggono con il motorino verso piazza San Martino e via Marsala. Cinzia Banelli accende la rice trasmittente e chiude l'azione. Marco Biagi spira alle 20.15. La notizia della morte di Marco Biagi sconvolge i palazzi della politica, i palinsesti delle televisioni. A Porta su Rai 1, in quel momento c'è uno speciale dedicato alla flessibilità del mercato del lavoro. L'allora presidente della Confindustria Antonio D'Amato parla di una morte annunciata. Adesso noi siamo qui per testimoniare il ricordo di un uomo giusto, di un uomo vero che guardava negli occhi i suoi interlocutori, aveva il coraggio delle sue idee, credeva nella democrazia, un lavoratore che lavorava per dare al paese più opportunità. Biagi non aveva paura di dire quello che pensava e quella di Biagi purtroppo è una morte annunciata. E accanto ad Antonio D'Amato quella sera in televisione ci sono anche i segretari di CISL e UIL, Savino Pezzotta e Luigi Angeletti. Il ricordo che ho io di Marco è un ricordo di una persona molto libera, di un democratico vero, di uno che aveva il coraggio delle proprie idee anche quando andavano controcorrente, anche quando bisognava battagliare perché queste idee passassero. Una persona che guardava con grande attenzione all'Europa e che era veramente la sua passione, l'Europa è stata la sua passione, un grande esperto di diritto del lavoro. È stato ammazzato, assassinato, una persona per le idee che aveva. È come se avessero sparato a tutti gli uomini liberi di questo paese. I conflitti sociali, i diversi interessi sono del tutto secondari rispetto alla libertà di ognuno di noi. È il 20 marzo del 2002. Il brigatista Marco Mezzasalma invia a 533 indirizzi di posta elettronica la mail con il documento di rivendicazione. Il messaggio viene trasportato sulla rete dalla cella telefonica, quella di Via Dovidio, quartiere Talenti, Montesacro, a Roma. Il giorno 19 marzo 2002, a Bologna, un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Marco Biagi, consulente del ministro del lavoro Maroni, ideatore e promotore delle linee e delle formulazioni legislative di un progetto di rimodellazione della regolazione dello sfruttamento del lavoro salariato e di ridefinizione tanto delle relazioni neocorporative tra esecutivo, Confindustria e sindacato confederale, quanto della funzione della negoziazione neocorporativa in rapporto al nuovo modello di democrazia rappresentativa. Ma perché proprio Marco Biagi? Il professore non viene protetto dallo Stato ed è certamente un obiettivo dei terroristi fin dal 6 luglio 2000. È il giorno del fallito attentato alla sede della CISL di Milano di Via Tadino. Il documento di rivendicazione è firmato Nucleo Proletario Rivoluzionario. Contiene un passaggio specifico al lavoro svolto da Marco Biagi, il cosiddetto Patto di Milano per il lavoro, che il professore disegna insieme al sindaco di Milano Gabriele Albertini e al direttore della Confindustria Stefano Parisi. Il patto viene firmato da CISL e UIL, ma non dalla CGIL. Scattano così i primi provvedimenti di protezione nei confronti di Biagi. Il questore di Milano Giovanni Finazzo comunica al suo collega bolognese Romano Argento che Marco Biagi, insieme agli estensori del patto, sono nel mirino dei terroristi. A quel punto gli viene affidato il servizio scorta. Dal 25 luglio all'11 settembre 2001 si estende a Bologna, Milano, Roma e Modena. È il 9 giugno 2001. Marco Biagi non ha più un servizio di protezione. Il 2 luglio 2001 Marco Biagi invia un messaggio di posta elettronica al sottosegretario al Ministero del Welfare Maurizio Sacconi. Caro Maurizio, consentimi di ricordarti di intervenire su quanti hanno revocato la mia tutela a Roma, confermata invece in altre parti d'Italia. Penso al prefetto, ma sarebbe meglio agire sul Ministero dell'Interno e spiegare chi sono, cosa ho fatto e cosa sto facendo. Mia moglie, come me, è allarmatissima e sarà difficile riprendere le collaborazioni al Ministero senza adeguata protezione. La mia richiesta precisa, trasformazione del servizio da tutela, una buffonata, in scorta vera e propria. Ti prego di aiutarmi con la massima urgenza e determinazione. A domattina, alle 8, da te. E lo stesso giorno Biagi spedisce una mail a Stefano Parisi, allora direttore della Confindustria. Caro Stefano, consentimi di ricordarti di intervenire con la massima urgenza sul questore, come dicevi, ma meglio sarebbe il prefetto, per ripristinare la mia tutela anche su Roma, confermata nel resto d'Italia. Mia moglie è allarmatissima e anch'io sono molto preoccupato. Voglio continuare a fare le cose che ci piacciono, ma non vorrei che le minacce di Cofferati, riferitemi da persona assolutamente attendibile nei miei confronti, venissero strumentalizzate da qualche criminale. A risentirci domattina. Il 15 luglio 2001 invia al presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, questo messaggio preoccupato. Caro presidente, faccio seguito ai miei messaggi a Bologna, in via Garibaldi, per inoltrarti due richieste. Ti vorrei invitare il giorno 28 settembre ad inaugurare l'anno accademico dell'Università di Modena, dove insegno ormai da molti anni. Nella stessa giornata ti chiederei, sempre a Modena, di intervenire e concludere un convegno che organizzo come delegato della mia università per l'orientamento al lavoro, così intitolato: Università e mercato del lavoro, verso la piena occupabilità. Naturalmente sono a tua disposizione per aiutarti a stendere i tuoi interventi a questi importanti appuntamenti. Devo chiederti aiuto per la mia sicurezza personale. Da un anno sono sottoposto a regime di tutela scorta, poiché collaboro con la Giunta Albertini a Milano e sono l'estensore tecnico del Patto per il Lavoro di Milano. La Digos, di varie città, mi ha preso in consegna contro il rischio di possibili attacchi terroristici. Il timore è che si ripeta con me un caso d'Antona. Ti lascio immaginare come possa vivere tranquilla la mia famiglia. Ora collaboro anche con Confindustria e CISL, nonché con lo stesso ministro Maroni, realizzando sul piano tecnico una strategia di flessibilità sul lavoro. Sono molto preoccupato perché i miei avversari, Cofferati in primo luogo, criminalizzano la mia figura. Per ragioni che ignoro, a Roma da 10 giorni è stata revocata la scorta tutela e tutte le volte che vengo nella capitale sono molto allarmato. Ti chiederei la cortesia di fare il possibile affinché, continuando il mio impegno tecnico di qui sopra, io venga tutelato a Roma, come a Milano, Bologna, Modena ed in genere in tutta Italia. Mi piacerebbe parlarti 10 minuti. Se la tua segretaria ci potesse organizzare un incontro, anche brevissimo, ti sarei molto grato. E ti prego di non fare parola con tua mamma sulla questione confidenziale che ti ho prospettato, perché mia mamma ne è all'oscuro. In ogni caso, a Ferragosto sarò a Lizzana. È il 15 settembre 2001. Il ministro dell'interno Claudio Scajola diffonde una circolare con cui si taglia il 30% dei servizi di tutela e scorta. Biagi non ha più alcun tipo di protezione. Sono i giorni in cui si sta perfezionando il libro bianco sul mercato del lavoro. 8 marzo 2002. Il possibile obiettivo suggerito dai servizi segreti nella loro redazione semestrale sembra il ritratto perfetto del consulente del Ministero del Welfare. Nel mirino dei nuovi interventi offensivi ci sono le personalità politiche, sindacali e imprenditoriali maggiormente impegnate nelle riforme economico-sociali e del mercato del lavoro e, segnatamente, quelle con ruoli chiave in veste di tecnici e consulenti. Tra poco, dopo la pausa, il racconto del giallo-nero su Marco Biagi. Giallo e nero. Le indagini sulla morte di Marco Biagi corrono parallele a quelle dell'omicidio del professor Massimo D'Antona, ucciso dalle Brigate Rosse in via Salaria a Roma il 20 maggio 1999, e seguono il filo che lega il passato al presente. Porta un nome: Nuclei Comunisti Combattenti, NCC. Attentati e documenti di rivendicazione. Il primo nel 1992 contro la sede di Confindustria in via dell'Astronomia a Roma. Il secondo nel 1994 contro il NATO Defense College, sempre a Roma. Poi l'arresto di Luigi Fuccini e Fabio Matteini nel 1995 durante un'attentata rapina di autofinanziamento. Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi sono i militanti complessivi che si assumono la responsabilità di trasformare i Nuclei Comunisti Combattenti in Brigate Rosse. Si delinea il ruolo dei brigatisti irriducibili detenuti nelle carceri di Trani e Latina. Antonino Fosso, Michele Mazzei, Francesco Donati, Franco Galloni offrono l'avallo politico ed ideologico, il cosiddetto passaggio di testimone tra vecchie e nuove BR, fino al 2 marzo 2003, il giorno della svolta. Roma Tiburtina. Sono le 6:19. Il treno 2304 Roma-Firenze inizia il suo lento viaggio verso il nord. In uno scompartimento sono seduti Nadia Desdemona Lioce, nome di battaglia Maria, e Mario Galesi, nome di battaglia Paolo. Entrambi brigatisti latitanti. Sono le 8:24, stazione di Teronto, la crocevia per l'Umbria. A bordo salgono 3 uomini della polizia ferroviaria, di guida il maresciallo Emanuele Petri.